questa. Certo, mi ero trovato in una poltrona. Anche te ci mi sono sotto la doccia. A parte Gian Mario, e tu non ci sei andato in campagna? No, io un cazzotti chi mi cazzo avevo facciato bene e tu per la cara mi piatta di smossare cazzo e così che questo mazzaro direbbe un bozzo aveva pure finito bu, così che è più da parato e vi ne travaglia ancora là. Due giorni ci vuole, mi si può fare le cose fatte come si deve. E io vado a butto due dita e di piatto, già lo sai, di piatto. Però te lo puoi fare bene, con calma, senza pressa. Sempre due giorni ci vuole, per rifinirlo e tutto quanto. Già l'hai visto io, vado a piatto due dita. Purtroppo lui anche era me, da una parte stavolta non c'era il calcetto russo, ma ti ho fatto un lato ma fare i buchi, perché lì c'è il muro importante della cabina dell'ascensore, dunque da quella parte lì c'avevo il calcetto russo, ma ti ho avuto quello io, a fare i buchi a piazza Rogotro Terraglio, però piano piano io me l'ha già fatto, però sempre due giorni ci vogliono per rifinire tutto, anche in mia casa, perlomeno io ci metto così, se poi per ricostruire altre spallette la mappa è sicura, cava, riprenditela. Fine che fa, ora c'è un bilastro, questo che è tutto un buon ferro, però questo dramma lo fa via, già si è entrato una testa appena dalla Sabassi, niente, e barre filettate, o metti, niente, è entrato. Voi finito, piazzato è piazzato, ma voi finito, noi non è che siamo mastri, no, noi siamo un po' sciappini, però già eravamo piazzati come a testi. Ah, ma vedi finirlo e per cui mi vuole del bisogno. Piano piano, non oggi bressa. Avanti qui, chiama l'amico tuo. Non si sente ancora. Tomace, sì, Tommaso. Faccio un attimino di bianco io, Gianmario, riprendo subito, se dovrebbe chiamare già sto riprendendo subito, se dovrebbe chiamarmi, cercarmi, sto riprendendo subito, vado un attimino su a casa. Già lasciamo un po' di bianco ogni tanto e senz'altro lo sentiremo se chiama, ma io ho sentito qualcuno chiamando, ma forse era lui. Tommaso! Forse per propagazione. Allora sia. Taglia di e bai di uti, no? Così che gli dà ragione. Oh, ti stavo dicendo, no? E poi ieri sera stavamo tamponando, però abbiamo finito il materiale, così che no. Abbiamo messo oggi quello che mi doveva aiutare, non ci è venuto perché aveva da fare, così che così. Però a parte il dentro è quasi finito e da una parte c'è la tamponatura, capito? Perché il più grande è il portone, capito? Si chiama allagato di più di chi dobbiamo allagarmi, avevo fatto un casotto con un gango, capito? E poi che faccia questa cosa, gatta, mariamo un molto picco di chi ti mari. Da 90 è quello lì, perché tu dovevi me appoggiare e non poter battere la vecchia, il canale segnare i buchi dove le fa per segnare tutto in giro con un pennarello o una matita, lui di Italia, una volta che hai fatto tutto il taglio, rimisi rapido con le gambe, aprivi le gambe, quattro alla parte e quattro all'altra, e poi tutti i buchi, poi i dopo c'è il calcio, anche io mi sono aggiuntato più da sellatore, con molto piccolo tagliati per bravo di trombarazzo, se no già c'ho il martello anche, però lì ho buccato martello da scalpello e col tassellatore, allora sì, già ci sono riuscito a fare i buchi, adesso sono fatto il ferro, ho piegato le gatte un tonno e gliele ho affiancate, e gli ha preso quello di ciglio. E lì è che mi ha pregato un po' di tempo, se no ci avrei impiegato un giorno mio a piazzarla. Solo gli da parte alla sinistra mi ha fuggito, non ci pensavo, io pensavo che ci fosse qualche camera d'aria lì, invece no, è proprio qua c'è il truzzo. Chi è che chiama Luigi? Aspetta, amico, si chiama Luigi. Siccome è lì, non è, per esempio, sulla battuta, non è, a una parte c'è il pilastro centrale, ma l'altra parte c'è la camera d'alta fatta a mattone di chita marina, capita, come se entrava lo molto piccolo, capita, si crepava tutto l'altro e ne parava la chimetta, se avevo fatto un buco di mano di chi si deve fare, capito, no, veniva bene, anzi, avanti con particolare, noi eravamo proventi, avessi riuscito ad andare a bere con la mola, ma la mola, capita, mangiava troppo di uva, se mi fermo subito avevamo usato lo cango, capito? E se no è un macello. Ma che se no l'abbiamo fatto dritto, l'abbiamo insegnato già. E l'abbiamo tagliato proprio sulla riga che abbiamo fatto, invece, e poi non siamo maestri noi, ma ci siamo arrangiati, capito? Grazie a. E magari sei stato maestro, io non l'ho piazzato mai anni, perché non è che, capito? Chi trovo che d'altro l'abbia piazzato il fuoco di me, lo falegname, ma lo falegname non ho, e di pure che cosa ha fatto, però, lo frabbica pure e basta, con biombo. Il biombo non l'avevo mai più trattato, avevo trattato un livello, ma se invece mi vorrei un biombo vado a più bene. Loro dicevano che lo trattavo io, se no veniva io, e se la beata la mano, l'ho mai distrutta. Ci vuole anche il livello, ma con il biombo più perfetto dare il livello, capito? Con il biombo non ti fuggi, così. Una volta che ho piombato, lo cugni, lo blocchi, metti la cagnetta, lo butti bene, poi lo ricontrolli. Una volta che ci sicuro, lui prende i blocchi e li butti a cemento rapido. Io qua ho fatto così, capito? E poi devi guardare anche in terra il pavimento, se non ti strisci la porta in terra, i cacchettini del calaio ce l'hanno, i cacchettini del calaio, quello che attacca la porta, ce li hanno i gommini sotto. Mi sembra di sì, già bisogna. No, già è piazzato meglio, insomma, noi abbiamo fatto la bella meglio, capito, rispetto, noi abbiamo fatto un ribucchi così, abbiamo buttato la barra filattati e abbonolati, che già è bloccato bene, capito, già è bloccato bene, solo che davvero un pavimento un poco barducci, no, che il pavimento che si fa del pedino, e c'è un po' di luce, c'è un po' di luci. Mi sono capito io che mi da lontano, dalla cameretta, sto capendo, infatti. C'è un po' di luce. Evidentemente non ce l'ha questo qua, quel pezzo che però entra l'aria. La più spizzero, guarda, apri la porta e guarda in basso, c'è davvero una specie di bollone il quadro, che quando chiudi la porta si schiaccia, fai chiudendo la porta, quello lì entra dentro e fai abbassando l'antispizzero, perché quello vuole regolato, è una, come una vite senza fine. Infatti se stringi porta sull'antispiccolo, perché se è troppo si intracca in terra, se quello è mezzo regolare, devi aprire il portoncino e guardare il mazzo, dalla parte, non do grappa, dall'altra parte dove è fatta la battuta, dal portoncino il mazzo, c'è un buoncino con una molla, un vero quadro. Se lo spingi con la mano scende l'antispicolo, quello lì c'è, si lo trasmesso, controlla così. Boh, non l'ho visto quello lì, ma in tutti i portoncini ci sono quella roba. Accetta il bianco, Gian Mari. Dimmi lui. Ciao, amica. Ciao. Allora, Tommaso, ci sei, Tommaso? Quale che ti stai chiamando, così ci sono stavata. Tommaso, ci sei, Tommaso? Non lo so, va bene, inizia a salire in macchina. Riprendete, Gian Mari, inizia a salire in macchina, lì a pretanietela. L'ho chiamata anch'io due volte, ma non ha risposto, evidentemente non è disponibile, ma vediamo un po', dai. Beh, tanto sarà fra poco arriverà senz'altro, per cui poi cominciare ad andare lui, va bene? Intanto fate appena di... lasciate appena il spazietto. Ehi, d'accordo. Prova, Madonna, non l'ho sentito neanche io, ho sentito uno dei fuori che chiamava. In genere ce lo dovrebbero avere tutti, anche quelli semplici, capito? Boh. Domani, guarda, va non la giocano al desamina, domani la baita. Non lo so se ce li hanno tutti, se mi dice così, questo io, infatti adesso è chiuso e porto a non la luce c'è, così che vuol dire che se cosa che si può regolare vuol dire che vuole regolare, bisogna guardare, capito? Perché a Parigi stato in basso, attaccato al portoncino sotto, ci deve essere un capo quadro, capito? Che se lo spingi con il dito così lo schiacci, scende la sbarra antispiffero, capito? Però comunque è regolato, mano a mano che chiudi il portone, se senti che sta arrabbiando, allora lo allenti. Si va a arrivare alla chiusura, la volta che è arrivata a chiusura, c'è una striscia che non lo senti proprio raffigurando in terra, che sfiora. È aperto così, capito? E non entra l'aria, è antispifferi quello lì, si chiama. E poi prima di piazzare un portoncino devi controllare sempre il pavimento, tutta l'apertura dell'anta del portoncino, o c'è il bisogno che golpa e poi tu piazza piombo tutto, ma poi apri il bucare e ti si incrassa il pavimento, capito? Quello non l'avete controllato voi. No, per incassarsi non si cala, aria ce n'è, così che non si incastra, capito? Per cui vedo che è abbastanza libero, capito? Poi il pavimento è il bar giusto, non è perfetto, quello lo so, perché c'è anche quella porta che abbiamo messo in sala lì, ha graffiato anche sempre, capito? Anche quello che c'era, capito? E anche questo l'abbiamo sollevato, per cui non tocca più. Ma il porticino già c'è l'aria, per cui non tocca, sennò l'avevamo controllato da prima, capito? Ma il pavimento va sempre controllato prima di murare, capito? Non c'è il bisogno di pregare il colpo, il pavimento, anche no a me, anche se mi travagliava lungo, è capitato, cazzo, non uno, tutti i due qua a parlare là. Ma per farci, tu dici, è andata a bruciare e crassava in terra. La droga la dice, cazzo, e adesso come mai non ha porticato il fattore? Sì, la vita è chi deve avere così bene, si chiama il pavimento e si fa fare il pavimento, tomate la bucciata. Tutto cinque ho ascoltato la radio Pirro, ma durante il mio vizio coordinato le cioè a un suo... Ah, sono terribili, no, qua no, già è storto, lì c'è l'affallamento, c'è una parte, e qua c'è una parte alta, capito? spacca il zaino, si batte mezzo che. Beh, ti so bene, però non l'hanno fatto come 3 anni fa, però. Beh, la luce, non tocca in nessun luogo, tranquillo, canta chisso, capito? E al limite, se non vuoi salvare anche spifferi, va a comprare la vendita, non dare la vendita in buio sulle nozioni per la casa giusta. Una placchetta bianca, marrone, puro, e una setola tipo lo spazzolino. Mi dà attacca a fare in grezzo, sì, al limite non prende. Funziona la stessa. Ehi, se non vuoi faccio così, passi, va. Vabbè, è già stato là, ma domani bisogna materiale, che abbiamo bisogno di materiale, che sta che va a continuare a finire, capito? Ma domani penso di, dalla polatura la finiamo, dai. Infatti la sua base è già fatta, la base è proprio dritta, ecco. Ti chiedo magari che mi facciate un video, che tu tanto, anzi sei facciato anche un... ecco, ho fatto il bollo tutto rubo, e per cui ho mezz'anno fatti alla mele fuce, lo sai, che invece buoni mattuccioli in tre, non sapete, hanno fatto i mezz'anno in occhi, fate il chifo. Thank you. visto mentre io li scarico a nord della Sardegna, da se compri i Sassari. Ma dove vai? Oh! Ma sei entrato? Ma sei? Dove vai a entrare nel mercato? Segui a me, dove cazzo vuoi entrare? Segui a me! Che non mi sembra neanche uno che fa il mercato. Ma ho fatto sempre chiedere da qua giù, io visto, è quello che sta dicendo, eh! Guarda, se non ripompi, va! Matera, se so che la federa vi fa, donate Dimmi a tu. Non scende, ovvero. Sì, però adesso vabbè già ti sento bene, ma poco fa non riuscivo a sentirti perché c'erano questi segnaloni furti da fuori, ti schiacciavano. No, non è da fuori, no, mi interessava solo quello, mi interessava. Sì, sì, già stai uscendo. No, vuoi dirci qua? Gappa. No, anche questa cosa di Baruccia Bettone a me non mi piace molto. Cioè, provo a dire se fare già bidon chi? Stavo chiamando e non mi hanno sentito. Attenzione! Chi te le chiama? Ma a me? No, negativo. Tu, io quando ti ho sentito ti ho risposto. Non sei tu, Robè. Boh, papà si è tacito tutto, non si intende più nulla. Poco fa c'avevo le cose, come si chiama? QRM a 995. La gappa. Non sei tu, Robè. No, non ti preoccupare, no, non c'entri niente tu. Io volevo la conferma se stavo uscendo questo apparecchio. Siccome vedo che sta spingendo di flash, stavo uscendo. E io ho fatto chiamata e non me ne riposo. E mi si sono girate un pochettino le scatole. Ehi, non è un problema, non ti preoccupare. Ci vedi che ti sono rimane. Veraggio pure lui, o veraggio le cose. Non è che per anni sono rovette, no? Sì, vabbè, è abbastanza così. Non c'è nessuno, adesso ho girato un po' il canale, sono salito per sbaglio, ho sentito gente su 45. Però non era gente di cioè, di Gigino mi è sembrato uno. Vai, vabbè. Ma la trattoria, la differenza, mi si sono rotate le... Sì, vuol dire che stavamo facendo altre cose, è di una futtina, già te la devi mangiare a te, non c'è problema. Attento collega se ascolti Sassari, la città di Sassari che fa chiamata. Sì, avanti la provincia di Treviso, avanti, qua a nord della Sardegna che sta chiamando, avanti. Sentiva basso di radio almeno, se no era abbastanza forte, poi di quel punto è passato un altro zoppo. No. Gappa. Ce ne sono molti, poco fa lo sentite anch'io molti. Prova a parlare, cioè ma dai portate senza parlare. Ah, tutto a posto, mi sembrava che avevi un rumore sopra. In questo momento ho imboscato grande guari. Vida Mauri. Tu li senti questi, Anto? Mi fermo un attimo. Li sento, ma sono uno sopra l'altro, basso in basso però. Adesso c'è un pochettino abbassata. Questo è Riccione. Attento Riccione se colpi Sassari. Ecco città di Sassari. Stasera ho collegato questo della Slovacchia, arrivava a 9:20 qua. Un segnale allucinante. Slovenia, nord Italia. dell'Italia, non della Sardegna che va chiamando, avanti. Copiato 1%, è della Sardegna, è Sardegna, è 100% amico, è della Sardegna, è stazione, è slovenica, operatore Bernardo. Sì, buonasera Bernardo, qua in compagnia di Roberto che ti cordializza, mi dai anche un controllo di radio di Santiago per favore? Avanti Bernardo dalla Slovenia. Mi chiamo della Slovenica stazione e Slovenica stazione operatore Bernardo chiama e Sardegna e Sardegna è copiato e stazione e della Slovenia cambio. Ecco, anche altro ti stava sopra la modula, non c'è il segnale più forte tuo. Buonasera Bernardo, qua operatore Roberto QSL. Buonasera Bernardo, ti rilancio un amico qua Antonio, avanti Antonio per Bernardo. Avete parlato di due Antonio. Attento Bernardo, che apparato utilizzi e che antenna? Please, many cool questions. radio in Santiago, please. Oh, non se ne comprende nulla, vabbè, tanto se vuoi riprendere, prova tu, mi sa che fa caldo, fa. Aspetta, che torniamo bravi, che se no facciamo danno. Slovenia, adelante, avanti, stazione di Slovenia, Bernardo, my friend, avanti, over. Ascolti Bulldozer in Nord Sardegna, gatto.